Capitolo 2. Basilea. Le ceneri. 1545. Ho vergato righe insufficienti che attraverseranno le colline, oltre la Franca Contea, a imboccare la Senna, seguendo nel corso sempre più ampio e piatto, dove le imbarcazioni possono navigare alla volta di Parigi e del mare, e poi la Manica e le coste inglesi. Un mese, forse più. Sfuggiranno così alla guerra, alle truppe mercenarie dei principi tedeschi, agli eserciti ammassati al confine dei Paesi Bassi dai vassalli dell'imperatore. Consegno la lettera. Indirizzata a un fantasma di nome Gotswold Pölnitz, nella città di Londra. Nessuno l'aveva detto apertamente, ma sapevamo di essere arrivati all'ultimo giro. Al sicuro già 250.000 fiorini e la sensazione che Fugger cominciasse a sospettare qualcosa. Gotswold Pölnitz, l'unico che era sempre rimasto nell'ombra, insospettabile e per di più morto parecchi anni prima, con il nome di Lazarus Tücher. A lui ho affidato il destino delle persone più care. Kathleen, Magda, se si mette male è con lui che dovete andare. Lot dovrà correre più forte degli sbirri, senza voltarsi indietro. Appena sceso dalla nave, un ragazzino si è avvicinato e mi ha sconsigliato di tornare a casa. Li hanno portati via tutti. D'accordo con Gotz. Se riesci a portarle con te, un drappo rosso alla finestra della casa dove abbiamo nascosto i soldi. Il drappo c'era e magari c'è ancora. La casa era quella di un vecchio mercante trasferitosi a Goa, nelle Indie. C'era anche il denaro, 100.000 fiorini. Avrei dovuto raggiungere Katrine e Magda, al sicuro, vivere il resto dei giorni in pace. Ma non ne ho avuto il coraggio. La storia dice che chi tocco muore. Amici, fratelli, compagni di ventura. Dietro di me c'è una scia di sangue che comincia lontano, in un giorno di maggio, e arriva fino a qui. Thomas Münzer, torturato e giustiziato, 20 anni fa. Elias il minatore, decapitato dalla spara di un mercenario in una strada fangosa. Hans Hüth, soffocato in carcere dall'incendio del suo stesso giaciglio. Johannes Denk, stroncato dalla peste in questa stessa città. Melchior Hoffmann, probabilmente morto di marciume nelle prigioni di Strasburgo. Jan Wolkerts, primo martire delle terre d'Olanda. Jan Mattis di Haarlem, in pezzi, dentro un cesto di paglia. Jan Bokelson di Leida, Bernard Kipperdolling, Hans Krechting, torturati con tenaglie roventi, giustiziati ed esposti al pubblico ludibrio in 3 gabbie, appese al campanile di San Lamberto. Jan van Batenburg, decapitato a Vilvoorde. I nomi sono nomi di morti. Ultimo sopravvissuto di una razza senza fortuna, un popolo che la storia ha voluto sterminare. Unico sopravvissuto insieme alle donne, che davano energia e cervello ai guerrieri. Ottilie, Ursula, Kathleen. Magda è salva, sotto un altro cielo. I suoi 12 anni sono la fessura che resta alla vita per sgusciare via, da mezzo secolo di sconfitte. Sono l'ultimo superstite di un'era e mi trascino appresso tutti i suoi morti. Carico pesante a cui non voglio condannare nessun altro, tantomeno la famiglia che avrei potuto avere. Sono salve, questo conta. Gotz penserà loro, lo ha promesso. Lo avresti fatto anche per me, forse, grande mago dei numeri, ma era un rischio, era un appestato, un volto che in tanti avrebbero potuto riconoscere. Per questo non hai detto niente e hai salpato l'ancora senza voltarti. Lo avevi detto fin dall'inizio. Se va male, non ci saremo mai conosciuti. Non ci presteremo aiuto, ognuno penserà a sé. Hai preso la tua parte e quella di Eloy per Magda e Kathleen. Ti sei rivelato un figlio di puttana di buon cuore. Kathleen, non bastano queste righe per spiegare, non basterebbero 1000 lettere. Cercavano me, non voi. Avrebbero preso anche le donne e i bambini, certo, ma non Gotz il fantasma. E allora mettile in salvo, l'Inghilterra, tra le braccia dei tuoi amici inglesi o del loro re ubriacone. Kathleen, forse me l'hai detto in faccia quel giorno che tutto finiva lì. Che non mi avresti rivisto, anche se ce l'avessi fatta, anche se fossi scampato. Perché un vecchio destino mi aveva riagguantato e 1000 amici perduti morivano di nuovo con Eloy. Hanno preso Balthazar, che non rivedrà mai più sua moglie. Hanno preso Davion, dei Dorhut. Hanno preso Dominique, la sua prosa muore con lui. E poi Van Hove, il denaro non gli è servito questa volta. E Steinhardt, Stevens, Van Hert. La grande casa è rimasta vuota. Io sono scappato e sono di nuovo solo, ancora una volta. Temevamo l'ira di Fugger, il furbo. Non potevamo immaginare che sarebbero stati i seguaci del Papa a metterci le mani addosso. Non ha fatto un nome. Il suo spirito è volato libero sulla carne lacerata. Dicono che abbia riso forte, che invece di urlare rideva. Preferisco pensarlo così, mentre il fumo lo avvolge. Lui che ride a crepapelle davanti ai corvi. Ma dovrebbe essere qui, a offrirmi ancora il liquore e quei sigari profumati delle Indie. È destino che io debba sopravvivere, sempre, per continuare a vivere nella sconfitta, consumarla poco alla volta. Sono vecchio. Ogni volta che un temporale fa suonare il cielo, sobbalzo al ricordo dei cannoni. Ogni volta che chiudo gli occhi per dormire, so che li riaprirò dopo che molti spettri mi avranno visitato. Kathleen, adesso, in un posto lontano dalla guerra, spendo il tempo che resta, nascosto tra gente in fuga da mezza Europa, braccata come me dall'inquisizione del Papa o da quella di Lutero e Calvino. Gente pacifica, che arriva col proprio carico di libri, di storie, di avventure. Letterati, chierici perseguitati, battisti. Sono solo un volto tra tanti, ricco abbastanza per permettermi il silenzio. Soldi per finire i giorni. 100.000 fiorini e nessun modo decente di spenderli. Sono vecchio, forse è solo questo. Ho vissuto 10 vite diverse, senza fermarmi mai e ora sono stanco. La disperazione non mi visita più da qualche tempo, come se l'animo si fosse chiuso alla sofferenza e riuscissi a guardare le cose da lontano, quasi le leggessi in un libro. Eppure, da quelle pagine sale ancora l'ombra nera che mi accompagna da sempre, a dirmi che nessun prezzo può saldare il conto, che non si paga mai abbastanza e non esiste rifugio sicuro. C'è una partita che vuole essere chiusa. Se deve essere fino alla fine, che sia. Tutto ciò a cui tenevo è in salvo. Ci sono soltanto io. Io e gli spettri che mi accompagnano. Tutti quanti. Anche Ludovic de Chalidecker, alias Eloy Pruistink, bruciato extramuros il 22 di ottobre del 1544.